Ah, il trio. No, il duo, siamo io e te. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Allora, Kappa, tu da bambino, che tipi frequentavi? Tutti i svizzerotti di montagna? La scuola svizzera. Drago. Con la botticella di guarda, io c'ho lo smartphone al collo. E ti faccio la pernacchia. Sì, ecco. Ho capito, tong out. I miei amici erano amici come i tuoi, insomma, dici? No, vabbè, perché sembra che sia importantissimo frequentare le persone giuste fin da quando si è piccolissimi. Ma cosa vuol dire? Devi fare PR all'asilo? Quasi, perché da uno studio della University of Illinois si evince che gli amichetti dell'asilo e delle elementari condizionano il comportamento del bambino anche in età adulta, soprattutto i maschietti. Vabbè, ma da piccoli si fa amicizia con chiunque, a caso, no, non è infatti, che... infatti bisogna essere fortunati di beccare gli amici giusti, oppure avere un agente che cura le relazioni esterne. Ma cosa dici? L'agente di un bambino di 3 anni, cos'è? Uno di 8? Sì, più o meno, la materia è ancora controversa sull'età degli agenti. In ogni caso, è meglio non trascurare le frequentazioni dei bambini, anche se sono ancora piccoli. Ci sono relazioni che lasciano importanti segni per il resto della vita. Vedi il caso del bambino dell'Utri, che era amico dello stagliere Mangano. Fine tutto sto giro di amicizie si è rivelato un boomerang. Se il bambino dell'Utri in Sicilia avesse frequentato gente come si deve, che ne so, Leonardo Sciascia, la storia sarebbe andata diversamente. Vabbè, no? Hai capito? Quindi è importante, bambini, frequentate già i bravi bambini, quelli calmi, educati, lasciate stare gli agitati, quelli che giocano spesso con l'iPad e con l'iPhone e con quella roba lì. È Natale, e passa Babbo Natale, e io la macchina a pedali, e ho la Porsche a pedali. Chiedo asilo. E ora, bambini, ricreazione! Oh, ricreazione, quindi tempo di fiabe, Kappa, Oggi da qui si inaugura, raccontiamo le fiabe nella ricreazione. Si inaugura perché... e anche si finisce subito. No, magari sì, però è importante leggere le fiabe ai bambini anche quando sono piccolissimi, 6 mesi. Quindi, genitori all'ascolto. Per far diventare più intelligenti i vostri figli, bando alla pigrizia, ogni sera una bella fiaba. Oppure ci sono anche in vendita delle bellissime audio fiabe, che uno può fare a meno di leggere, mettere sul CD. Play. Bambino Alberto, a te i tuoi genitori le leggono, le raccontano le fiabe, te le fanno sentire? Certo. Le fiabe? Forse me le raccontavano, perché io ne ho sentito parlare. Ma no, le fiabe, insomma. Ma non è che abbia capito bene cosa siano. Ma perché? Sono le fiabe. A me, guarda, a me i genitori leggevano dei passi dal capitale, il capitale dei di Karl Marx. Ma come un racconto gotico? Ma non è un racconto gotico, è un trattato di economia politica. Sì. Poi, ma tu che cosa capivi del capitale? Scusa. E no, niente. Ah, beh. No, anche perché i miei genitori erano fissati, quindi leggevano l'edizione originale in tedesco. Vabbè, almeno avrà imparato il tedesco, dai. Sì. No, perché i miei genitori tedesco non lo sanno. Ma come? Leggevano tutto sbagliato. Ma no? Allora, scusa, ma loro non capivano quello che ti stavano leggendo, in pratica? No, ma si fidavano, no? Cioè, l'autore del libro era Marx. Quindi quindi si fidava. Quindi è il brand. È un po' strano però che non ti abbiano mai raccontato, non so, la fiaba di Cappuccetto Rosso. Quella la raccontano tutti. Niente, lascia perdere, che qui siamo veramente. Ma Cappuccetto Rosso, non sta, lasciami pensare. Cioè, una roba dell'Armata Rossa. No, adesso. Ma perché l'Armata Rossa? No, perché mi leggevano anche l'Enciclopedia Sovietica, quella in 68 volumi, integrale. Ma quale? Quella? Come se la conoscessero tutti? La famosa Enciclopedia Sovietica. Magari in russo anche. In russo, in russo. Come no, certo. Quindi, i tuoi sanno leggere il russo? No, però ci provavano, no? Ma come? È scritto in alfabeto cirillico, è tutto diverso. Cosa? Ma no, niente, alfabeto diverso. Bisogna dire che gli sforzi dei tuoi genitori, bambino Alberto, hanno dato qualche frutto, l'hanno dato, perché ti sei fatto un'ottima proprietà di linguaggio. Tu usi, dici, ho letto alcuni passi già lì. Quello è vero. Parli sempre con noi adulti senza problemi, capisci tutto. Insomma, bravo bambino Alberto, bravo. Anche se leggevano in russo e in tedesco, hai imparato bene l'italiano. Bravo. Ti ringrazio. Okay. Cioè, anzi, posso anche dirvi danke, no? Come diceva Marx. Marx diceva. O spasiba. Quello direbbero gli amici sovietici. Amici. Sassiba, no? No, Sassiba, spasiba. Spasiba, io Sassiba quando. Vabbè, voi spasiba. in realtà poi vai lì, vai lì a Mosca, vai nei vicoli così, di Sassiba. Cioè. Ah sì, ah, sì, lo slang. Sassiba va questo qui, è un turista. Ah, ecco. Sassiba. Nei vicoli. Di Mosca, eh. E lì c'è la mafia bianca. Sono quasi le 5, K, e quindi è l'ora del tè. Tè e biscotti. Oh, tè e biscotti, a quest'ora è proprio l'ideale. Quindi salutiamo anche tutti quelli che chiaramente ci stanno ascoltando bevendo tè e biscotti dappertutto. La gente sta lavorando, ha fermato tutto. E a Oxford c'è una comunità d'ascolto di Chiedo Asilo. Certo, con il centrino. Sono tutti lì che prendono questi, sono tutti tedeschi che vivono in Oxford e mangiano biscotti. Sono i nostri ascoltatori ideali, tipici tedeschi che stanno a Oxford. Anche lì però staranno dibattendo su quali biscotti mangiare, perché tra Plasmon e Barilla è scoppiata la guerra dei biscotti. Anzi, è scoppiata la guerra dei biscotti. Tenente Drago, questa è una guerra. La guerra tra biscotti, cioè insomma, non è così grave. È la guerra tra la Plasmon e la Barilla. Vabbè, allora chi se ne frega, parliamo d'altro. Ma no, vabbè, è interessante perché ci sono stati dei casini. Bambini che hanno comprato i biscotti Plasmon, anzi Barilla. Vedi che già mi sto confondendo. Drago, perché ci sono. La Plasmon ha fatto una pubblicità comparativa in cui accusava la Barilla di usare degli ingredienti che non andavano bene per i bambini di quell'età lì, insomma, dai 0 ai 3 anni, non lo so. Sì, non sai. Quindi è successo su un casino, perché la Barilla ha comprato pagine di quotidiani per difendersi dall'accusa, non però per perdere, perché aveva paura di perdere le vendite, ma perché non voleva che i genitori andassero nel panico per aver comprato dei biscotti che in realtà si possono mangiare. Quindi ora comincerà una dura battaglia legale, dura e lunga come una baguette lì da 4 giorni che né si piega né si spezza, capito? Dura e lunga. Ma chi se ne frega? E sulla lunghezza dei processi, caro Cappa, ricordiamo che Michele Vietti, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha detto che ci deve essere un momento in cui la prescrizione si sterilizza, dopodiché si faccia di pari passo il processo breve, ma non quello che lo ammazza nella culla. È morto. Che bello, è Natale, Drago. Manca pochissimo Natale, allora, e manca pochissimo alla recita, quindi guardate il video della canzone del bambino Alberto di Natale su YouTube, lì ci sono tutte le istruzioni anche per iscriversi. Chiedo Asilo è radio24.it. Che è una specie di trailer dello spettacolo, no? Come i trailer del film, sono le cose migliori, sono lì, e poi vai a vedere il film, dici, bah, era meglio il trailer. Ad esempio. Quindi potreste anche guardare solo il trailer e poi non vedo. Ma venite, portate anche i bambini stavolta, mi raccomando, anche gli animali sono ammessi? Ah sì? No, non lo so, forse no.